Capitolo 3. Alle 2 in punto arrivò in visita il signor James Grand. Il signor Grand era il presidente del consiglio di istituto del liceo e voleva discutere con lei di alcune faccende importanti prima di lunedì, giorno in cui sarebbe partito per Kingsport per partecipare a un convegno. Anne lo invitò a recarsi a Windy Willows in serata, purtroppo non poteva. Il signor Grand era a modo suo un brav'uomo, ma da tempo Anna aveva imparato che andava trattato con i guanti. Inoltre, ardeva di portarlo dalla sua parte nella controversia che andava profilandosi sulle nuove attrezzature scolastiche. Andò dai bambini. «Miei cari, perché non andate a giocare da bravi in cortile mentre dico due parole al signor Grand? Non ci metterò molto. Poi, più tardi, faremo merenda sulle rive del laghetto e vi insegnerò a fare le bolle di sapone colorate di rosso. Sono bellissime. Ci darà un quarto di dollaro a testa se stiamo bravi?» chiese Gerald. «No, caro Gerald», disse con fermezza, «non ti darò del denaro per farti stare bravo. Sei un ometto ormai e starai bravo perché te lo chiedo io». «Staremo bravi, signorina Shirley», promise solennemente Gerald. «Bravissimi!» gli fece eco Geraldine con pari solennità. Forse avrebbero mantenuto la promessa se non fosse arrivata Ivy Trent appena Anna si fu ritirata in salotto con il signor Grand. Invece Ivy Trent arrivò e i gemelli Raymond detestavano l'inappuntabile Ivy Trent, che faceva sempre tutto a modo e sembrava un manichino calzato e vestito. Non c'era dubbio che quel pomeriggio Ivy Trent fosse andata dai Raymond apposta per sfoggiare le scarpette marroni nuove fiammanti, la fascia in vita e i fiocchi di nastro rosso sulle maniche e tra i capelli. La signora Raymond, nonostante i suoi difetti, aveva idee piuttosto sensate sull'abbigliamento per i bambini. I vicini, i criticoni, dicevano che spendeva tanto per sé da non avere più nulla da spendere per i gemelli. E Geraldine non aveva la possibilità di imitare Ivy Trent, che sfoggiava un abito per ogni pomeriggio della settimana. La signora Trent la vestiva sempre di bianco candido. Perlomeno Ivy era candida quando usciva di casa e se non era altrettanto candida quando ci tornava, naturalmente era colpa dei bambini invidiosi di cui abbondava il vicinato. Invidiosa? Geraldine lo era davvero. Moriva dalla voglia di avere una fascia rossa e fiocchi sulle spalle e vestiti bianchi con i ricami. Che cosa non avrebbe dato per un paio di scarpette marroni con i bottoncini come quelle di Ivy? Che ne dici della mia fascia nuova e dei fiocchi sulle maniche? Chiese Ivy piena di boria. Che ne dici della mia fascia nuova e dei fiocchi sulle maniche? Disse Geraldine facendole il verso. Ma tu i fiocchi sulle maniche non ce li hai? Disse Ivy con sussiego. Ma tu i fiocchi sulle maniche non ce li hai? Strillò Geraldine. Ivy era perplessa. Ma sì che ce li ho, non li vedi? Ma sì che ce li ho, non li vedi? Le fece eco Geraldine, felice della trovata, di ripetere le frasi sprezzanti di Ivy. Non li hai ancora pagati, disse Gerald. Ivy Trent montò in collera. Era evidente dal viso che diventò rosso come i fiocchi di nastro sulle maniche. Certo che li ho pagati, mia madre i conti li paga sempre. Mia madre i conti li paga sempre, ripeté Geraldine. Ivy era a disagio, non sapeva come affrontare la situazione. Così si rivolse a Gerald, che era senza dubbio il maschietto più bello della strada. Ivy aveva preso una decisione che lo riguardava. Sono venuta a dirti che d'ora in poi sarai il mio fidanzato, disse guardandolo eloquentemente con gli occhi castani, che a dispetto dei suoi 7 anni avevano un effetto devastante sulla maggior parte dei maschietti di sua conoscenza. Gerald avvampò. Non voglio essere il tuo fidanzato, disse. Sì che lo sarai, disse Ivy imperturbabile. Sì che lo sarai, disse Geraldine, dondolando la testa. Niente affatto, gridò Gerald furibondo. E non fare la sfacciata con me, Ivy Trent. Sì che lo sarai, disse Ivy ostinatamente. Sì che lo sarai, ripeté Geraldine. Ivy le lanciò un'occhiataccia. E tu taci, Geraldine Raymond. Sono a casa mia e parlo finché mi pare, disse Geraldine. Ha ragione, disse Gerald. Ivy Trent, se non chiudi il becco, verrò su da te, strapperò gli occhi alla tua bambola. Provaci, mia mamma ti picchierebbe, esclamò Ivy. Oh, ma davvero? Beh. Sai allora che cosa le farebbe la mia mamma? Le darebbe un pugno sul naso. Beh, per Però devi essere mio fidanzato, disse Ivy, tornando imperterrita all'argomento che le stava a cuore. Ti ficcherò la testa nel serbatoio dell'acqua, urlò Gerald esasperato. Ti strofinerò la faccia in un nido di formiche, ti strapperò quei fiocchi e quella fascia, disse infine trionfante, avendo trovato qualcosa di fattibile. E allora facciamolo, strillò Geraldine. E si gettarono come furie sulla povera Ivy che urlò, tirò calci e cercò di mordere, ma non poteva farcela contro quei due. La trascinarono per tutto il cortile fino alla legnaia, dove nessuno l'avrebbe sentita gridare. Presto, disse Geraldine senza fiato, tra poco arriva la signorina Shirley. Non c'era tempo da perdere. Gerald tenne Ivy per le gambe mentre Geraldine, stringendole i polsi con una mano, le strappava con l'altra i vari fiocchi e la fascia. Dipingiamole le gambe, gridò Gerald, notando due latte di vernice lasciate la settimana prima dagli imbianchini. Io te la tengo e tu la dipingi. Ivy strillò più forte che poteva. In un attimo si trovò senza calze e con le gambe a strisce rosse e verdi. Nel corso dell'operazione di pittura, grandi schizzi di vernice avevano imbrattato l'abito ricamato e le scarpe nuove. Come tocco finale le cosparsero la testa di lappole. Quando infine la lasciarono libera, era uno spettacolo pietoso. Vedendola così conciata, i gemelli urlarono di felicità, si erano vendicati di tutte le aree di superiorità e condiscendenza che sopportavano da settimane. E ora tornatene a casa, disse Gerald, così ci penserai due volte prima di venirmi a dire che devo essere il tuo fidanzato. Lo dico alla mamma, disse Ivy tra le lacrime. Vado subito a casa a dirlo alla mia mamma che sei un bambino cattivo, sì, cattivo, perfido, odioso e brutto. Non dire brutto a mio fratello, presuntuosa che non sei altro, esclamò Geraldine. Tu e i tuoi fiocchi, ecco, prenditeli, non ce li vogliamo ingombrare qui nella nostra legnaia. Ivy, bombardata dai fiocchi lanciati da Geraldine, uscì di corsa in strada, singhiozzando. Presto, saliamo di nascosto dalle scale di servizio e andiamo in bagno a lavarci, prima che ci veda la signorina Shirley, disse Geraldine senza fiato. Capitolo 4. Il signor Grand aveva sviscerato l'argomento che gli stava a cuore e si era congedato. Anne rimase un attimo sulla soglia, chiedendosi con un senso di disagio dove fossero i bambini. In quel momento giunse al cancello una furia umana che teneva per mano un infelice esserino singhiozzante. Signorina Shirley, dov'è la signora Raymond? Chiese la signora Trent. La signora Raymond è. Insisto per parlare con la signora Raymond. Voglio che veda con i suoi occhi che cosa hanno fatto i suoi figli alla mia povera Ivy, indifesa e innocente. La guardi, signorina Shirley, la guardi, prego. Oh, signora Trent, mi dispiace molto. Tutta colpa mia, la signora Raymond è fuori casa e io ho promesso di badare ai bambini, ma poi è venuto il signor Grand. No, non è colpa sua, signorina Shirley, lei non è da condannare. Nessuno può farcela con quei due bambini diabolici. Li conoscono tutti nella strada. Se non c'è la signora Raymond è inutile che io rimanga. Ora porto a casa la mia povera bambina, ma non è finita qui. Oh no, non è finita qui. Ma che succede, signorina Shirley? Si stanno facendo a pezzi l'un l'altra? Dal piano superiore giungeva un coro di grida, urla e strilli. Anne corse su per le scale. Sul pianerottolo c'era un ammasso umano che si divincolava, si contorceva, mordeva, strappava, graffiava. Anne separò a fatica i gemelli infuriati e, trattenendoli a forza, chiese spiegazioni di un tale comportamento. Dice che devo diventare il fidanzato di Ivy Trent, ringhiò Gerald. Certo che sì, strillò Geraldine. E invece no, e invece sì. Bambini, disse Anne. Qualcosa nel suo tono di voce li domò. La guardarono e videro una signorina Shirley mai vista prima. Per la prima volta nella loro breve vita sentirono il peso dell'autorità. Tu, Geraldine, andrai a letto per 2 ore, disse Anne con calma. Tu, Gerald, trascorrerai lo stesso tempo nello sgabuzzino del vestibolo. Non dovete fiatare. Vi siete comportati in modo ignominioso e dovete accettare la punizione. Vostra madre vi ha affidati a me e voi mi ubbidirete. Allora ci punisca insieme, disse Geraldine, incominciando a piangere. Ha ragione, lei non ha il diritto di separarci. Non siamo mai stati separati, borbottò Gerald. E lo sarete adesso, disse Anne con la massima calma. Avvilita, Geraldine si spogliò e si infilò in uno dei lettini della cameretta. Avvilito, Gerald entrò nello sgabuzzino. Era un ripostiglio grande e arioso, con una finestra e una sedia, perciò la punizione non poteva considerarsi eccessivamente severa. Anne chiuse a chiave la porta e si sedette con un libro vicino alla finestra del vestibolo. Se non altro, per 2 ore sarebbe stata in pace. Qualche minuto dopo andò a dare un'occhiata a Geraldine e la trovò profondamente addormentata. Nel sonno sembrava proprio un angioletto e Anne si pentì quasi della propria severità. Beh, comunque un riposino le avrebbe fatto bene. Quando si fosse svegliata, le avrebbe permesso di alzarsi anche prima dello scoccare delle 2 ore. Un'ora dopo Geraldine dormiva ancora. Gerald era stato tranquillo e Anne decise di perdonarlo perché aveva accettato la punizione di buon grado. Dopotutto, Ivy Trent era una scimmietta vanitosa e probabilmente l'aveva provocato. Anne aprì con la chiave la porta del ripostiglio. Gerald non c'era! La finestra era aperta e si affacciava sul tetto della veranda. Anne strinse le labbra, scese da basso e andò nel cortile. Di Gerald nemmeno l'ombra. Per lo strolla legnaia e la strada, anche lì di Gerald nemmeno l'ombra. Attraversò di corsa il giardino e si avviò lungo il viale che attraverso un tratto di boscaglia conduceva al laghetto nel campo del signor Robert Creedmore. Gerald era sulla zattera che il signor Creedmore teneva ormeggiata a riva e stava spingendola allegramente al largo con una pertica. Nel momento in cui Anne uscì dalla macchia d'alberi, la pertica che Gerald aveva infisso con forza nella melma del fondo si conficcò con facilità inaspettata al terzo tentativo e il bambino finì in acqua con un capitombolo. Anne lanciò un istintivo grido di spavento, ma in realtà non c'era alcun pericolo. Nel punto più profondo l'acqua non arrivava alle spalle di un bambino e dove era caduto Gerald non arrivava alla cintola. Era riuscito a tirarsi in piedi e se ne stava lì, con aria smarrita, quando alle spalle di Anne riecheggiò un altro grido. Geraldine, ancora in camicia da notte, arrivò di corsa tra gli alberi e raggiunse il piccolo molo di legno a cui di solito era ormeggiata la zattera. Gridò: Gerald! Con tono straziato e si gettò a capofitto nell'acqua verso il fratello, investendolo con un'ondata che rischiò di fargli una doccia completa. Gerald, sei affogato! Esclamò Geraldine. Sei affogato, fratellino! No, no, sorellina, la rassicurò Gerald battendo i denti. Si abbracciarono e si baciarono con trasporto. Bambini, venite immediatamente qui, disse Anna. Tornarono a riva. La giornata di settembre calda al mattino si era fatta nel pomeriggio fredda e ventosa. Tremavano tutti e due come foglie ed erano cianotici. Anna, senza una parola di rimprovero, li condusse in fretta a casa, li spogliò degli abiti bagnati e li mise nel letto della signora Raymond con una bottiglia d'acqua calda per ciascuno, ma continuavano a tremare. Avevano preso un colpo di freddo, stavano covando una polmonite. Avrebbe dovuto badare di più a noi, signorina Shirley, disse Gerald, sempre battendo i denti. Ha ragione lui, disse Geraldine. Preoccupata, Anne volò da basso e telefonò al dottore. Quando arrivò, i gemelli si erano ormai scaldati e Anne fu rassicurata pienamente sulle loro condizioni. Bastava solo tenerli a letto fino all'indomani e non ci sarebbe stato nulla da temere. Uscendo, il dottore si imbatté nella signora Raymond che rientrava. La donna si precipitò in camera, pallida e sull'orlo di una crisi isterica. Oh, signorina Shirley, come ha potuto permettere ai miei tesori di correre un simile pericolo? È quello che le abbiamo detto anche noi, mamma, dissero in coro i gemelli. E dire che mi fidavo di lei. Le avevo detto. Non vedo come mi si possa incolpare, signora Raymond, disse Anne con occhi freddi come nebbia grigia. Se ne renderà conto, spero, quando si sarà calmata. I bambini stanno bene, ho chiamato il dottore per precauzione. Se Gerald e Geraldine mi avessero obbedito, tutto questo non sarebbe accaduto. Pensavo che un insegnante sapesse controllare un paio di bambini, disse con sarcasmo la signora Raymond. Altri bambini, forse, ma non questi satanassi, pensò Anne. Si limitò a dire: dal momento che lei è qui, Signora Raymond, andrò a casa. Non credo di poterla essere ancora di aiuto e ho dei compiti da correggere. I bambini si precipitarono giù dal letto per gettarle le braccia al collo. Spero che ci sia un funerale ogni settimana, signorina Shirley, esclamò Gerald. Lei mi piace e spero che verrà a badare a noi tutte le volte che la mamma va via. Sì, lo spero anch'io, disse Geraldine. Lei mi piace molto, ma molto di più della signorina Prouty. Oh, molto, ma molto di più, disse Geraldine. Ci metterai in un racconto? Chiese Gerald. Oh, per favore, sì, disse Geraldine. Non intendo dire che lei l'abbia fatto apposta, disse la signora Raymond, abbandonando ogni tono di critica. Grazie, disse Anna gelidamente, cercando di liberarsi dalla morsa in cui la stringevano i gemelli. Oh, non facciamone un motivo di discordia, la implorò la signora Raymond con i grandi occhi pieni di lacrime. Non sopporto le discussioni. Certamente no, disse Anne con sossiego. Quando voleva, Anne era capace di mostrarsi sossiegosa. Non credo che ci sia il minimo motivo di discordia. A quanto pare, Gerald e Geraldine si sono divertiti oggi, anche se non si può dire lo stesso della povera Ivy Trent. Quella sera Anne tornò a casa sentendosi invecchiata di 10 anni. E pensare che giudicavo Davy un monello, rifletté. Trovò Rebecca nel giardino, intenta a raccogliere tardive viole del pensiero all'ultima luce del giorno. Rebecca, Dew. Prima, il vecchio adagio, i bambini si devono vedere e non sentire, mi sembrava troppo rigoroso, ma ora ne vedo i lati positivi. Oh, povera cara, ora le preparerò una bella cenetta, disse Rebecca, Dew. E non aggiunse, gliel'avevo detto io. Capitolo 5. Brano di una lettera a Gilbert. Ieri è venuta la signora Raymond e mi ha pregato, con le lacrime agli occhi, di perdonarle la reazione avventata dell'altra sera. Oh, signorina Shirley, se lei sapesse cosa vuol dire essere madre, non esiterebbe a perdonarmi. E in effetti non ho esitato. Nonostante tutto, provo simpatia per la signora Raymond. Ed è stata un tesoro con noi del centro di arte drammatica. Però mi sono ben guardata dal dirle se al sabato vuole uscire ai suoi pargoli ci penso io. L'esperienza insegna anche a chi è inguaribilmente ottimista come me. Ho scoperto che mezza Summerside palpita per la storia d'amore di Jarvis Morrow e Dovie Westcott, i quali, come dice Rebecca Dew, sono fidanzati da più di un anno e non riescono a fare un passo avanti. Zia Kate, che è una lontana zia di Dovie, credo sia per l'esattezza zia di una cugina di secondo grado da parte della madre, segue con particolare interesse la vicenda perché ritiene Jarvis un ottimo partito per Dovie e anche perché, a quanto mi sembra, detesta Franklin Westcott e vuole vederlo scornato. Zia Kate mai ammetterebbe di detestare qualcuno, ma la moglie di Franklin Westcott era una sua carissima amica d'infanzia e lei giura che l'ha uccisa lui. Anch'io seguo con interesse la vicenda, un po' perché provo molta simpatia per Jarvis e una discreta simpatia per Dovie, un po' perché, come incomincio a credere, ho la radicata abitudine di impicciarmi degli affari altrui. Sempre con le migliori intenzioni, naturalmente. In due parole, la situazione è questa. Franklin Westcott è una vecchia volpe del commercio, un uomo alto, austero, riservato e poco socievole. Vive in una grande casa vecchio stile che si chiama Elmcroft, appena fuori città, sul tratto più alto della strada della Baia. L'ho incontrato solo un paio di volte, ma conosco poco di lui, a parte la sua strana abitudine di dire qualcosa e di mettersi subito dopo a ridacchiare in silenzio. Non è mai più andato in chiesa da quando è invalso l'uso di cantare gli inni e pretende tutte le finestre aperte anche nelle giornate invernali di tempesta. Confesso di dargli segretamente ragione su questo punto, ma devo essere l'unica qui a Summerside. Ormai è considerato una delle autorità cittadine e non si fa niente di ufficiale senza la sua approvazione. La moglie è morta. Corre voce che fosse una specie di schiava, nemmeno padrona della propria anima. Appena mise piede in casa, dopo le nozze, Franklin le disse che a comandare lì dentro sarebbe stato solo lui. Dovie, che in realtà si chiama Sybil, è la sua unica figlia. È una ragazza di 19 anni, carina, simpatica e grassottella, con labbra rosse che si schiudono volentieri a mostrare dentini bianchi, riflessi castani nei capelli bruni, incantevoli occhi azzurri e ciglia nere tanto lunghe da sembrare finte. Jen Pringle dice che Jervis è innamorato degli occhi e non di lei. Ho addirittura discusso dell'argomento con Jen. Jervis è il suo cugino preferito. A proposito, è incredibile quanto Jen voglia bene a me e quanto io ne voglia a lei. Quella ragazza ha un suo fascino. Franklin Westcott non ha mai permesso a Dovi di avere degli spasimanti e quando Jarvis ha cominciato a farle la corte, lui lo ha diffidato da mettere ancora piede in casa sua e ha detto a Dovi che era ora di finirla di andare in giro con quello là. Ma ormai non c'era più niente da fare. Dovi e Jarvis erano già perdutamente innamorati. Tutta la città parteggia per i due ragazzi. Franklin Westcott è davvero irragionevole. Jarvis è un bravo avvocato, di buona famiglia, con ottime prospettive per il futuro. E poi è un ragazzo simpatico e di cuore. Non vedo cos'altro potrebbe pretendere quella ragazza, afferma Rebecca Dew. Jarvis Morrow ha solo l'imbarazzo della scelta qui a Summerside. Ma Franklin Westcott la figlia la vuole zitella, così si assicura che gli manderà avanti la casa dopo la morte di zia Maggie. Non c'è nessuno che riesca a farlo ragionare, ho chiesto. Non ce la fa nessuno a discutere con Franklin Westcott. È troppo sarcastico. E se qualcuno ha la meglio su di lui, fa una sfuriata. Sfuriate sue io non ne ho mai viste, ma la signorina Prouty mi ha descritto la scenata che ha fatto una volta che lei era a Elmcroft a cucire. È andato in bestia per qualcosa, chissà che cosa. Ha preso tutto quello che gli è capitato a tiro e l'ha buttato fuori dalla finestra. Le poesie di Milton hanno fatto un volo sopra la staccionata e sono finite tra le ninfee del laghetto di George Clark. Quell'uomo ha sempre l'aria di avercela su con la vita. La signorina Prouty dice che la madre le ha raccontato che i suoi strilli quando è nato passavano l'immaginazione. Dio deve avere un motivo per far nascere gente così, ma mi chiedo qual è. No, non vedo via di uscita per Jarvis e Dovi, tranne la fuga d'amore. Resta un mezzuccio, anche se si è fatto un gran parlare del romanticismo della fuga d'amore, ma in questo caso le scusanti ci sono. Oh, Gilbert, non so che fare, ma qualcosa devo fare. Non riesco a star lì a guardare la gente che si rovina la vita, e non mi importa nemmeno delle sfuriate di Franklin Westcott. Jarvis Morrow non resterà per sempre ad aspettare. Già si dice in giro che stia perdendo la pazienza e qualcuno l'ha visto accanirsi a cancellare il nome di Dovi dalla corteccia d'albero su cui l'aveva inciso. Si mormora che una certa Palmer, ragazza molto graziosa, si stia facendo avanti e si dice che la sorella di lui abbia detto che la madre ha riferito che il figlio non ha certo bisogno di stare attaccato per anni alle sottane di una ragazza. Gilbert, caro, tutto questo mi rende triste. C'è la luna stasera, tesoro. Illumina con i suoi raggi salici del giardino. Lancia riflessi sulla baia solcata da una nave fantasma che punta all'orizzonte. Illumina il vecchio cimitero, la mia valletta privata, il re della tempesta, e starà illuminando con i suoi raggi il viale degli innamorati, il lago delle acque scintillanti, la cara foresta stregata e la valle delle violette. Stasera le fate danzeranno sulle colline, ma Gilbert caro, se non si ha qualcuno accanto, anche il chiaro di luna diventa una luce prosaica. Mi piacerebbe portare Elizabeth a fare una passeggiata. Adora le passeggiate al chiaro di luna. Ne abbiamo fatte di bellissime quando eravamo a Green Gables. Ma qui Elizabeth, la luna la vede solo dalla finestra. Sto incominciando anche a preoccuparmi un po' per lei. Va per i 10 anni ormai e quelle due vecchie non hanno la minima idea di quel che le occorre sul piano dei sentimenti e delle emozioni. Non pensano che possa avere bisogno di altro al di fuori del cibo e del vestiario. E la situazione peggiorerà con il passare degli anni. Che adolescenza avrà mai quella bambina?